Super Sidekick. Sì, va bene, Vaglia, va benissimo, non c'è problema, però con la Delta la modulazione è più bella, per conto mio io la sento meglio, la sento più bella. Cappa, ce l'ho sotto il cuore, Saletta, non faccio altro che cambiare. Io ho quello, ci ha detto che io è quello che si piega lo stesso, no? Anzi, addirittura tutti e due si piegano le gambe, ma quello che ho io è quello che è largo, non è il rotondo, o la capsula non ce l'ha rotonda, è una cosa orizzontale, larga saranno 4 centimetri all'incirca di larghezza, se non anche di più. E tu hai quello, io sto parlando del microfono, ecco, Master Plus, sì, mi sembra che si chiama così, se ricordo bene, sì, ecco, Master Plus, sì, così è. E dunque va bene, già, va molto bene, è di colore grigio un po' scuro però, e poi c'è l'eco, poi c'è la regolazione anche dell'eco e più il volume, e c'è anche il modulometro, che quando schiacci, anche senza attaccarlo al baracchino, si accende la sfia del modulometro. Il tuo così è già? Sì, si accende, sì. E appunto, e allora è uguale. Avanti giù, Bruno. Lo stilo lungo e sarà, quanto sarà alto? Sarà 1,20 m, boh, all'incirca, ed è frusta nera, è la boomerang, è funzionante, tranquillamente. Poi ne avevo costruito un'altra antenna, che c'ero sempre da parte, più ho questa mantova tubo, che è sempre messa da parte, anche quella nuova, e io sto usando la Game Master originale. Perciò vedo che va bene e fin quando funziona questa sono contento, così almeno non ho problemi radiali, non ho problemi di niente. È stata messa anche a prova di vento, per cui ho visto che regge, fino ad oggi non si è rotta. Adesso andiamo incontro al tempo buono, per cui suppongo che tutta l'estate mi farà, poi al prossimo inverno si vedrà. Però per il momento ho visto che funziona benissimo, non c'è problema. Avanti Gianni. Gianni B, sì o no? Thank you. sì, certo, mi ricordo la Regebus, c'era la Firenze 2 anche, simile, insomma, ce n'erano la Sardaster, la Bassardaster, e a Voglia ce n'erano le antenne, per non parlare poi di tutte le serie, Le Monde della Grand Prix, eccetera. Per cui ce ne sono state tante di antenne. Io ne ho autocostruita una tempo fa e l'ho tenuta almeno 2 anni e mezzo, che era tipo canna a pesca, se sono come la Grimmat. E poi quella l'ho tolta, l'ho data e io ho adesso quella originale. Però ne ho già costruito un'altra, ne ho di sempre tipo canna da pesca, e l'ho messa da parte. E dunque la dovrò completare per accordarla proprio definitivamente. Però ancora non ho avuto modo di farlo, perché sto facendo altre cose, e poi col tempo brutto che di tanto in tanto piove, che me lo fa fare. Perché per provare quella devo tirare giù la Game Master, perché il palo è quello e basta. Per cui o una o l'altra, non è che mi devo mettere altre pali, non ci ho perso proprio. E poi tra l'altro è la parte bassa. Prima invece la mandavo a tubo, ce l'avevo dall'altra parte della casa, dietro o blu, ed era molto più in alto, almeno 6 metri più in alto di come adesso. E andava alla grande, andava benissimo, non c'era problema. Vediamo se c'è qualcuno che voleva entrare, perché anzi mi è sembrato di vedere un accenno importante. Avanti, Antonio, tu sei Antonio Bombolo? No, non è lui evidentemente. C'è qualcuno che vuole entrare? Allora, sarà proprio così. Sarà proprio così, o blu. E vabbè, comunque. La gente si sta stancando, c'è poca attività, c'è in frequenza, per cui, però, finché funziona il baracchino, io ci sarò. Finché funziona il baracchino, poi quando non funziona più, vedremo cosa fare, vuol dire ne compreremo un altro. Diversamente non potrei fare, vero blu? Nessun rumore, già va bene. E no, già entrano tante volte, entrano gli amatori anche a scambiare quattro chiacchiere anche con noi, certo, ci mancherebbe altro. E perché no? Sì, beh, siamo in pochi, ma tu vabbè, non la sai la storia. Alcuni anni fa si era pensato di pubblicizzare la frequenza, il baracchino, avevamo pensato di piazzare un tavolino in Piazza Italia o lì in via Piazza Castello, chiedendo naturalmente l'autorizzazione al comune per poterlo fare, per poter appunto cercare di far avvicinare un po' di gente alla frequenza, al baracchino. E poi a detta di qualcun altro, poi io non lo so se effettivamente è andata così, qualcuno ha messo il bastone fra le ruote e non se ne è fatto niente. Naturalmente sono solo voci, poi bisogna vedere qual è la verità, per quale motivo si è iniziato con un tipo di sistema, tanto è vero poi c'era ancora oggi, credo che ci sia ancora una iscrizione sul computer relativa appunto ai CB di Sassari, eccetera. Vabbè, comunque è andata così, pazienza, non siamo capaci di fare niente, io la metto così, dai blu. Thank you. anche così. No, ma prima addirittura, cioè quella volta che ti stavo dicendo io, l'intenzione era di prendere un tavolino, chiedere il permesso al comune, se ce lo facciamo mettere questo tavolino, qua andavamo con un'antenna, così con qualche baracchino per vedere uno dalla postazione mobile, diciamo, così, e l'altro da casa, e appunto quando i ragazzi si avvicinavano l'avremmo fatti parlare, no? Con la stazione fissa, che c'era magari qualcuno all'ascolto della stazione fissa, e si facevano questi collegamenti, invece non se ne è fatto niente. Tu pensa che, ripeto, l'associazione esisteva già, addirittura era su Facebook, e qualche altra associazione privata, anche dei paesi, ci aveva mandato anche i complimenti, i rallegramenti e gli auguri per la nuova società che stava sorgendo. Invece poi, ripeto, non se ne è fatto niente. Pazienza, comunque, siamo già salesi e boh, io la metto così, in questo modo. Io non do colpa a nessuno, perché non è giusto dare colpa a qualcuno, anche se qualcuno si è lavato la lingua, ma a me queste cose non mi interessano. Io mi entro in un orecchio le cose e me ne escono dall'altro, per cui non devo incolpare nessuno e non voglio incolpare nessuno, ci mancherebbe altro. Capito Bruno? Sono consapevole comunque del fatto che qualcosa si può fare, e magari qualche elemento l'avremmo anche fatto avvicinare alla radio e avremmo avuto qualche elemento in più in frequenza. Non se ne è fatto niente, Basenzia, chi se ne frega, parliamo con quelli che ci sono e non se ne parla più. Vai Bruno. Io vi devo lasciare, però dai, prima di tutto perché devo andare nel piccolo QTA, e poi perché sono già le 8, per cui qui è ora di cena, sicuramente avrà già apparecchiato anche mia moglie, non mi ha chiamato, ma è solo questione di qualche minuto al limite. Va bene, dai, ci sentiamo, ciao Bruno. Grazie per la chiacchierata, fatti sentire domani, ma casomai. Ciao Luca, alle prossime, salutoni anche a te. Ascolto il vostro finalino e poi chiudo, vai. Vai Bru. Ehi, allora, ciao Bruno, ciao Giulio, buona cena e buon tutto, alle prossime, ciao ciao. Che fischia, buonasera. Franco, senti qua, vita mia, che è? Ciao Lucariello, buonasera, mi ascolti bene, sì? Fra troppo alto, sì. Addirittura, ma di radio o di troppo preamplificata? Di radio, allora. Vabbè, non campi, aspetta che la abbassiamo, va. Così meglio va, Lucariello, che fischia. Troppo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non c'è bisogno di essere a manetta. Va un buon gambato, al minimo. Così dovrebbe andar bene, dai. Troppo alto? Sì, un attimo, ho registrato il break. Sì, è solo così. Dato, non siamo vicini, cazzo. Sì, ci stiamo anche di sblatte, pensando. Avanti il break per un controllo. amplificato, sì, ciao Chiodo, salutone, ben sentito, è compagnia di Franco, se lo ascolti, è troppo forte, troppo amplificata con la radio, peggiorato, peggio, tu come lo sentivi Fra? Tutta modulazione è brutta di radio. Così va bene fatto, se no è troppo sparata, che se no va bene. E l'MB più 4 sto usando questo, però se l'aumento esce troppo forte la radio, adesso l'ho messa a 2. Va benissimo. Gabba. Io ho un altro che ho recuperato la scheda dell'M300, però secondo me c'è un problema della capsula, la capsula non serve. Vanno bene, dai, è l'unica, guarda, devi più 4, devi fare un paio di modifiche, boh, se anche invece per smontendi, ne uno di più gana, fra. Qua, mi sono cambiato lo smitter dall'iPhone, giusto perché mi dà fastidio quando lo vedo che funziona male. Se no, manco maricato. E vai, infatti, io non tocco più nulla, lascio tutto così, non me la frega niente, lascio tutto voi, capite? Sì, che ti ascolto adesso, prova. Sì, insomma, molto meglio, sì. Guarda, segnale, io ce l'ho scritto un po' secco. Fai se intorno ai 5-7, dai. Ehi, ciao, grazie del... della visitina, dai. Alla prossima, buona carica, buon tutto, avanti Franco. Ciao Chiodo, buona serata, buon tutto, ben ascoltato, non te lo posso dire, la radio era un po' così. 5859 il rapporto di segnale, Chiodo. Ehi, ciao, riprendi lui. Ehi, ciao Claudio, alla prossima, ciao. Positivo. Stavi combinando oggi, tappo. Io ho montato l'antenna sul tetto. Che te l'hai messo? Una Benox. Va bene. vabbè, un'antenna così, però, boh, già funzionava bene. La mia è tornata da pulire e fare, boh, guarda, è stata a cambiare il cavo adesso. Lascia appena e diamolo faccio, piano piano, un pezzo alla volta. E poi volevo costruire delle staffe nuove, adesso lo devo dire a Roberto. Vediamo un po', devo prendere le misure giuste e poi ne stacco quelle vecchie, poi le devo cementate, con cemento rapido, ma le piazzo. Me lo faccio io, come ho fatto queste qua, mi piazzo bruissime, che da arrivo è ancora non è farata. Ma qua, io non faccio più, oramai rimane chi mi c'è l'antenna, questa si fatti a pezzi. Intanto stai sali, scendi, mi sono rotto le palle. E da corso a corso ha lampato il tutto a baita. Infatti. Oh, iaia. Si è mangiato, fra. Stava di positivo. Esatto. Io dopo faccio un po' di... una zuppa di latte, va. Che è buona. Dopo si può mangiare sempre pizza, patata asciutta, un po' di una zuppa di latte e via. Ma io ti posso dire che mi ho fatto un tè. Boh, tè con biscotti e basta. Stanotte leggero. Oh, sennò ogni volta basta. No, biscotti no. Oh. E andavo così. Vabbè, giusto per cambiare ogni tanto, sennò devo stare sempre a forza di pasta, pasta asciutta, pollo. Lo so, è fatta, vero, pasta asciutta, pasta aglio e olio, pollo, insalata. Anche io tanto mangio leggero, una zuppetta di latte mi faccio, che se ne frega. Già va bene. Se senti avere la saccoccia piena, se no non drombo, eh. Beh, allora quello. Per Dio, oggi in campagna ho tagliato un po' l'erba, cazzo c'era erba un bel alta, quindi ho dato una rastata, dai. Guarda. Ancora la venera taglia, piano, sì. Vedi, questa è come musica vesicata. E infatti, l'intenzione era chiusa, e poi la puoi seccare e qui già tagliata, capito? Adesso ho tagliato un altro po', una volta e un'altra rasata e qui a posto. Andava. Oh, yeah. sì, sta giocando adesso. Gli ho detto di balle, c'è un cane. Pure tu c'è cane in casa, fra. Ma oggi l'ho portato giù in campagna. Cioè, non ce l'avevo a casa prima. Ma è un lavoro, lui ogni mattina a portarlo, risalirlo, riportarlo. Lo so, è di da me. Perché stai al piano terra, come ti stai tu, vabbè. Quando c'è Roberto Biano, ogni volta zaffarà, tu via. Lo so, quindi stavo sistemando il telefono di un amico, boh. E l'avevo venduto io. Praticamente non carichiamo qua. Le ho pulito le tasche e la... Adesso sembra che sta funzionando bene, l'abbiamo provato, è perfetto. E andavo. E sto utilizzando quell'alimentatore dei cinesi, quello da 40 ampere. No, io quello mi ha fatto Claudio, questo qua, quello un trasformatore, con gli strumenti. Giù ce l'ho quello da 50. Ah, cappa. Adesso sto utilizzando, ma ce l'ho anche io quello con gli strumenti, però ce l'ho giù in campagna. E qua sto utilizzando quello, cioè devo buscare attendi, parendi, l'alimentatore. Infatti. No, io avevo tutto fatto bene. Cavo dentro, non si va di nulla, ma perché avessi tutti dentro? Tarato a 13,8 o 13,5, se non mi ricordo, vabbè. È perfetto. Per il momento va bene, poi la rosiguata per giù maletto. Quanti ampere? 30. Come? Ho detto 30 ampere. No, a 1,50. L'ho pagato 23 euro. Ah, di quello dei cinesi, tipo quello dei cinesi con la ventolina. E allora, però l'ho automodificato, ho messo il tastino per disattivare la ventola, il tastino accendi e spegni. E come quello che ho fatto io, anche io l'ho fatto così. Ma va bene comunque, funziona bene. E vabbè, sono tutti da vedere, però non mi ha fatto nulla, già rimane così. Poi ne ho un altro da 10 e un altro da 50. E vabbè. Vedi l'idea. Vieni qua, io, vieni. Cazzo, prima che hai portato la porta? Se c'è anche di male, siamo fermi, no? Vai su Twitch. Ma perché va Arianna, boh? Ma che c'è chiamato? Ma poi sarà Arianna. E no, ormai è più grazie. Saluta a Franco, ma. Sì? Saluta a Franco. Che Franco? Franco, guarda di Carletto. Ciao, ciao Caterì, buonasera, come sta? Certo, come sta? Certo, come sta? È Roberta, faccio... Sì, te lo conosci. Certo, come stai? Come vecchi? Come vecchi, allora, certo, cuccata. E allora? E sei messa male, l'avevo detto. Ma tu sai che c'è il rovescio? Non si deve dire. Non dire che c'è una tombarella, vabbè, con la tombarella è diventata, forse è pure già cuccata, ma niente. Si può più a girare tu che brincarla qua. E beh, perché non esce? Oh, cosa esce? Di capo esce. Ma deve camminare. Deve camminare un po', si deve muovere, se no è un problema. E cosa vuoi fare, purtroppo? Vabbè, si è trattato in cani, vabbè, non è che... c'è un guarito, pazienza, aia. E va. La scossa al piede. Se non ci arrivo, pazienza, che ce la fuggi. Noi te voglio provare un microfono, Lucarie. Dai, prova, che poi vado a fare la cena. Vabbè, dai, che ho bisogno di microfono, non mi tisci. Non mi piace. Brutto, vero? Secondo me Luca è problema di capsula, però, no. Brutto. Brutto, e c'è vero? Che avevo provato lì la capsula, perché è difettosa questa capsula, non si sì. Ehi, aspetta un attimino, là. Allora faccio una cosa, un attimino, aspetta, 2 secondi. Andiamo, qui c'è tutta una cobianetta, kappa, vabbè. Ciao Gianni, buonasera. Ui, Franco, come va? Tutto cappa. Ci avevo l'apparecchio acceso, va. Guarda com'esce questo Ruiz. attenzione. Va bene, ti ascolto bene qua. Attenzione Franco California, senti qua, vita mia, gata. Senti un microfono che ho cambiato la capsula. Attenzione binario 10, se sentite l'ululare, gata. Quel microfono c'è la capsula che non serve. Guarda, è qua, questa è la mia. No, è questo che c'ho io, questo palmare. È proprio problema di capsula che non serve. Guarda, la devo togliere e cambiarla. Questo va bene, sì. Sì, sì. Positivo, dai, frate, la batteria, la 131, dottor Roger, dai, gata. Mi ascoltate? K. Guarda come va questo microfono, ho cambiato la capsula, questa è M300. Va benissimo, ti ascolto bene già. Dove l'hai montata? Su quale microfono hai piazzata? Sull'M93. Va bene, va bene. Capa grava. Questa non serve secondo me la capsula. Adesso provo a cambiarla, ne ho un paio. E gliele provo. Via. Là, te l'ho mandata la stazione finita, con le luci continue. L'ho vista, molto è uscita bene. Attenzione Franco California, gala! Beh, io me ne sto andando, dai, ci sentiamo. Statemi tutti bene, che stavo a portare il cane. Ma sei andato già? Eh? Come stai andando, frate, gala? Portare a Tyson giù. Perché sono vicino, non devo stare vicino, là. Allora, sto portando giù a Tyson. Va bene, mi ascolti con quella radio questa qua, bene, sto uscendo là. Eia. Ok. Perché prodotto se non sto uscendo bene. Che non stai uscendo bene. Che non stavo uscendo bene, boh, non gli piace. Gabba. Adesso mi vago con i voi, la vita mia, gabba. Tutto benissimo qua. Non ci stanno problemi, Gabbè. Adesso provo a cambiare quella capsula e quel microfono. E allora io voglio farmi la cena, dai. Ci sentiamo già acceso qua, Gabbè. Andiamo, dai, ci sentiamo dopo magari se ci si. Ciao, Lucariello. Ciao anche a Gianni, ce l'ha detto per il prossimo. Correti per me, dai. Ciao, frate, dai. La partita, la 131, direzione Papatango, la partita, dai. Marco carica e scarica, gala. Gianni doppio rumore, senti qua, questa piccola citofonata, gala. Ehi, che ti sento, Luca, vai. Io sto andando che devo portare il cane, chi si vuole. Stiamo pugnando, vai. Ci senti? Ok, fratellino, dai, la prossima, dai, la partita, dai. Tutto positivo la partita, dai, non ci stanno problemi, dai, gabbè. Franco, senti qua, vita mia, gabbè. Che ti sei uscito a sciuganare me?